Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. Mi spiaccio il fatto pagliaccio per mettermi in mostra gli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché, perché, perché, perché? Perché chilenos? Perché chilenos? Dígame! Io le piacevo. Lei mi amava, mi odiava e era contro di me. Io non era ancora suo ragazzo, già soffriva per me. E per farmi gelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Ora tu vieni a chiedere a me sua moglie dov'è. Lo bello immaginarti che un giorno o l'altro sarebbe andata via da te. L'hai sposata sapendo che lei moriva per me. Poi i tuoi folli hai comprato sul corpo, non certo sul cuore. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non era ancora suo ragazzo, già soffriva per me. Farmaci una sera, quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno io vidi lei, entrò nella mia stanza, mi guardava, silenziosa, aspettava un sì da me. Dalla gioia mi alzai e tutta la guardai, sembrava un angelo e mi stringeva sul suo corpo e mi donava la sua bocca e mi diceva sono tua, ma di pietra io restai. All'improvviso le mollai sul supervisore, rimandando la natura. E già ritornai, mi avviando la sagnai. Sembrava un angelo che mi stringeva sul suo corpo e mi donava la sua bocca e mi diceva sono tua e non sogno l'altro.